piove, piove, santa profezia. La frattura chiama Gorgo. La frattura chiama Gorgo. Attento, bomburino, bomburino, dammi. Lu. Tu mi senti? Sì, ti sento, un cazzo ne ha il radio. Quando vuoi venire a prendere, so anche stasera a me, non c'è problema. Capito. Certo, se vuoi venire anche stasera a prenderlo. Che non fa più nessun difetto? Mi guarda, come prendo il caso, mi senti, mi senti, mi senti, mi senti? Papà che ti sento. Cazzo ne ha il radio che vai, Lu. Io lo so bene, dai. Prova. Una bomba, sì. C'è una radio micidiale, dai, minchia. Stasera a me tu prendi anche solo voi. Sì, sì, sì, magari anche dopo, perché devo andare a fare un trasporto, magari anche dopo più tardi ti chiamo e via. Devo andare a fare un trasporto in un frigorifero, ok? Mi approfitto e passo. Va bene, a dopo allora, ciao. Ciao, ok, ciao, grazie Lu, è una bomba, Non l'avevo mai sentito, non l'avevo, Positivo cavallo, ci sono problemi, ma ti stai ascoltando tu? No. Mi arrabbio. Attenzione, bomburino, bomburino, Suga. Sentiamo dopo che va a preparare il pranzo, ciao. Ciao, ok, ciao, ciao. Avanti, che c'è su 10, avanti? Ciao Roberto, sono io, questo pezzo delle prove. Ah, è bello, tutto bene? Sì, e tu? Diciamo, ho visto, sto cercando di mandare a tuo fratello del 49, Giulio. L'ha detto, non ho capito. Tuo fratello, quello che giocava a pallone, Salvatore, del 49? Sì, credo di sì. Sì, sì, sì, dovrebbe essere così. Se riesco ti mando la foto del cartellino quando giocava nei tornei del bar. Ma te l'avevo mandato, mi sembra. Te l'avevo mandato al cartellino addirittura. Ah, ce l'hai? No, pensavo che non ce l'avessi, se no te lo mandavo, perché dovevo scaricare. C'è un gruppo su internet, su Facebook, dove mettono tutte queste fotografie. Ho visto il nome e cognome di tuo fratello e tesetta, che chiedo se lui del 49 mi sta... Ma in via Gorizia avete fatto voi? In via? Gorizia. No, piazza Gorizia. Perché c'era un indirizzo, sembra scritto male, però sembrava Via Gorizia, però del 49, se mi stai dicendo lui, cioè l'anno di nascita corrisponde. No, è un coso, mi aspetta che te lo rimando, un cartellino, c'è la fotografia, il cartellino. Ma che chiari c'aveva tuo fratello? Ti sto ascoltando con un baracchino che è difettoso, non capisco bene, con Roberto. Ho detto, se aveva gli occhi chiari tuo fratello. Sì, sì, sì. E allora è lui, quella fotografia è lui, dai. Sì, sì, sì. Aspetta che te lo mando. Te la mando adesso, come adesso la fotografia è come la prima. Eia, ok. C'è qualche altro qua sul 10, attenzione 10. Giulio. Sì, vabbè. Vedi dove c'è scritto l'indirizzo? È quella lì che ho visto io, via Gorizia 75 c'è scritto. Boh, non lo so, forse lì avevano la sede, avevano. Infatti mi ricordavo bene via Gorizia, sì, è quella che vedevo io la foto. Ti volevo mandare l'altra, ma non si apre, forse ce l'ho da troppo tempo ed è sparita, boh, adesso vediamo. Vabbè, futti di dire una cosa, che baracchino è questo che stai usando? È un Cobra, ma è difettoso di gestione. Ma il segnale già arriva bene, 9 più 15 sei qua. Ok. 7 watt. Come mai la ricezione non funziona bene? No, forse l'altro parlante, cioè sento la modulazione troppo cupa, capito? È per quello. Ma non sono io quindi il problema? No, assolutamente, no. No, è così, lo stavo regolando, adesso già l'ho regolato, adesso va meglio. Ok. Un vecchiotto, ma comunque già va bene. Ma cos'è Midland o Lafayette? Cobra. Ma queste le Cobra recenti di adesso, ti mangiamo quelli lì? No, è vecchissimo, queste da base. Ah, beh, allora. Chissà che ce l'aveva uno Riccardino, se non sbaglio, una cosa del genere. Boh, non lo so, può darsi, non te lo so dire. Vabbè, comunque. Lo stavo guardando anche un po' la situazione, antenne, eccetera, è già tutto bene. Santiago 1, cioè Santiago 1, Rosso 1, 1 e 1, appena abbondante, va benissimo. Ma tu adesso che antenna stai utilizzando? Che cosa sta parlando mia figlia, non ho capito. Che antenna stai utilizzando, ho detto? La Game Master sto usando adesso. Ah, sempre la solita, pensavo avessi messo la Mantova. No, la Game Master. No, la stavo controllando, visto che stavolta piovuto, vediamo se c'è differenza quando piove, invece no, è sempre tranquilla tutta, su tutti i canali. E ieri ero preoccupato, che era troppo tardi, non voglio rialzarmi, c'era un bel temporale, non ho capito in che zona era quel temporale, perché mi hanno svegliato i tuoni. Tuoni, lampi, un po' di tutto, pioggia in abbondanza, No, io mi sono alzato alle 3 del mattino e ho staccato tutto. No, ma ero troppo stanco perché di notte sono tornato tardi e poi non avevo voglia di alzarmi. E dove era il temporale? In che zona era? Non lo so, qui era fortissimo, abbastanza forte qua. Perché c'è un'amica mia che abita a patto comunale, di lì vicino, mi ha detto di lì non ha fatto niente. Non lo so, qui c'erano dei tuoni fortissimi, dei lampi altrettanto forti, pioggia poi non se ne parla, era fortissima. Vabbè, già ci voleva un po' di pioggia, è troppo tempo, saremo 2 mesi che non cade una goccia d'acqua. Certo, però dovrebbe piovere piano, cioè, ma non dico piano, però se tutto in una volta così non è che va bene, no? Quello è il problema, i temporali estivi sono quelli i miei problemi, perché ti scarica tutta l'acqua che scarica in un mese, in una volta solo. Appunto, è quello, anche perché così nel terreno non è che ne entra, no? Non entra molto, quando è così forte l'acqua se ne va via subito, scorre via subito, invece quando è più lenta e però continua, i terreni assorbono molto bene e dunque la campagna ne gode alla grande. Certo, è normale, se no è tutta secca, arida, la cosa non penetra. Appunto, invece così, vabbè, comunque. Ma tu già pranzato hai, perché? No, adesso mi sto aspettando che mi chiamino, a momenti come vado a mangiare. Ho acceso così e te sapevo se c'è qualcuno. Io stavo aspettando, infatti è solita mia figlia a chiamarmi, ma comunque non è un problema. Stavo dicendo, vabbè, adesso mi controllo l'antenna, mi sa che è piovuto, vediamo un po' a che situazione sono le stazionali, va bene, su tutta la banda della 27, tutta, sino anche ai 10 metri, tranquillo, tutti 1-1, 1-2 massimo. È meglio così, dai, no, anche qua le stazionali sono basse, riesci a vedere il commutatore della radio, no, a uno, poco più di uno c'ho. Anch'io, a secondo dei canali, no, e a secondo anche dei watt che gli dai, e dunque, adesso questo ha 7 watt, mi sta guardando, vediamo che controllo di nuovo, quanti watt sono qua. Ehi, 7 watt circa. Ma c'è MSSB quello? Sì, però se niente FM non ne ha, solo le bande laterali e la M. Come il mio patch, il patch è la stessa cosa, c'è solo M e bande laterali e B, FM non esisteva ancora, non c'era ancora lo sviluppo. Infatti no, anche perché ho apparecchiature americane, capito? E dunque in America le FM non la usano. Infatti poi hanno iniziato in Germania a usarla, in Giappone, ma in cosa? Negli Stati Uniti usano sempre bande laterali e AM. Infatti è proprio così. D'altronde ogni nazione ha i suoi sistemi e i suoi modi di trasmettere. Però vedo che già va bene, anche questo qui essere spento da tantissimo tempo, no? Questo baracchino. E adesso l'ho voluto mettere in funzione, fatto funziona benissimo, dai. Oh, ti ascolto bene, che microfono stai utilizzando? Il microfono originale suo. No, sta andando bene, è chiara la voce, la tua voce è perfetta, niente da dire. Sì, è il microfono suo originale, no, niente di particolare. Sì, funziona bene anche l'MB4 qua, ma non ho batteria nell'MB4. Anzi, a dire la verità l'ho tolta, perché mi serviva il tester. E l'ho tolta dall'MB4 e l'ho messa nel tester, perché è uguale, è la stessa batteria. Dunque mi serviva quella, allora il microfono, tanto questo non lo uso mai, lo uso ogni tanto. Ah, no, va benissimo, è chiara, pulita. La tua voce, diciamo, molte volte questi amplificati aumentano la potenza della modulazione, però si sporcano la voce, perché poi si dice chi sei, abbassa la voce, non capisco, si deturpano troppo la voce e molti microfoni. Questa invece è perfetta. Quello perché la gente ha la mania della potenza, della radio, ho capito? È quello, il problema è solo quello. Se no i microfoni, la colpa non è del microfono, la colpa è di chi la usa, di chi lo usa male il microfono. Sì, naturalmente, certo, poi quello lì. Poi magari ci sono impedenze diverse, cerchi di abbinarlo a un altro microfono, no, e non fa. Ti distorce tutto, ti fa la voce paperino, e sono più forte, ma come che parli con un megafono e la voce non è chiara. Infatti è così. Vabbè, ma non sai come funziona, no? La frequenza già non sai come funziona, per cui, anche perché tutti noi siamo diversi da chiunque, per cui a uno le piace fortissimo, all'altro le piace più tenua e così via, e purtroppo è così, non siamo mai contenti. Adesso devo lasciare giù che mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo magari se coincide stasera, se c'è qualcuno, dai. Ciao, buona carica se devi farlo, oppure buon proseguo di serata, ciao ciao. Ok, ciao, sì, anche a me mi hanno già chiamato poco fa, adesso scendo, ciao ciao.